Letture di Radio 24. Nove cinesi su 10 pensano che le donne debbano accasarsi prima dei 27 anni. Così quelle che superano l'età vengono chiamate leftover women, donne lasciate da parte. Non importa quanto abbiano studiato, quanta carriera abbiano fatto. Non importa nemmeno che l'orologio biologico a questa età in Occidente non faccia nemmeno sentire i primi ticchettii. La pressione sociale a sposarsi negli ultimi anni si è fatta sentire a tutti i livelli. Del resto, tra politica del figlio unico e aborti selettivi, i cinesi in età da moglie sono 50 milioni, il 12-15% della popolazione maschile attiva. La buona notizia è che le cinesi non si arrendono e per far contenti i genitori e presentare presunti fidanzati, li affittano a 125 euro al giorno. Sono già 300 le agenzie sorte in tutte le città. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Edoardo Vigna, Vecchie a 27 anni? Vi facciamo vedere, dal Magazine 7 dell'8 marzo. Da quando Cuba ha aperto le frontiere, la blogger dissidente Ioani Sanchez ha intrapreso un lungo viaggio che la porterà a visitare prima il Sud America e poi l'Europa. Dal suo diario emerge lo stupore di chi per la prima volta si confronta con abitudini di vita così diverse da quelle della dittatura dove aveva sempre vissuto. Che cosa c'è di diverso? Gli odori e la temperatura, penso in un primo momento. In seconda battuta vengono i rumori che sono così peculiari in ogni luogo, il grigiore del cielo in inverno, il colore oscuro delle acque di un fiume che attraversa una parte d'Europa. Ma qual è la vera novità? Continuo a chiedermi mentre gusto un sapore sconosciuto e stringo per la prima volta una mano. Forse la musica, il rumore del tram mentre si arresta alla fermata, la neve che si ammucchia ai lati del marciapiede, i fiori di primavera che lottano per uscire fuori anche se sono attesi da una terribile gelata. Dove sento qualcosa di strano? Nelle campane delle chiese che sembrano gareggiare per suonare puntuali a ogni ora, o in certe case così antiche da far sembrare recenti le costruzioni dell'Avana vecchia. Per me la vera novità non sta nel gran numero di auto moderne o nel segnale Wi-Fi che mi permette quasi ovunque di collegarmi a internet. Neppure nei chioschi pieni di periodici, negli scaffali dei negozi ricolmi di prodotti o nel cane che in mezzo al corridoio della metropolitana viene trattato da signore e sembra il vero padrone della situazione. La cosa strana non è l'amabilità dei dipendenti, la quasi assenza di code, le gronde fatte di artigli e denti affilati che sporgono dalle facciate, o il vino fumante che si beve più per scaldare il corpo che per soddisfare il palato. Nessuna di queste sensazioni nuove o quasi dimenticate da un decennio trascorso senza viaggiare sono quelle che segnano la differenza tra l'isola che adesso vedo da lontano e i paesi che sto visitando. Il contrasto principale sta nelle cose permesse e in quelle vietate. Da quando sono scesa dal primo aereo sto aspettando che mi rimproverino, che qualcuno si presenti per intimare «questo non si può fare». Cerco con lo sguardo il custode che verrà a dirmi «non è consentito scattare foto». Il poliziotto dal volto ombroso che mi griderà «cittadina, mi dia i documenti». Il funzionario che in qualche corridoio mi taglierà la strada per affermare «qui non si può entrare». Nonostante tutto, non incontro nessuno di questi personaggi così comuni a Cuba. Ecco perché per me la grande diversità non sono i deliziosi pani di segale, la perduta carne di manzo che finalmente rivedo nel piatto o il suono di un'altra lingua nei miei orecchi. No, la grande diversità è che non sento in ogni istante sopra di me il segnale rosso del vietato, il fischio che mi sorprende in qualcosa di clandestino, la costante sensazione che qualunque cosa faccia o pensi potrebbe essere proibita. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ioani Sanchez? Qui nessuno mi chiede i documenti. Dalla stampa dell'11 marzo. Iniziata nel 2010, la primavera araba è arrivata ormai alla sua terza fase, quella delle proteste di massa contro gli islamisti. In un articolo pubblicato sull'ultimo numero del mensile Il, lo scrittore americano Paul Berman afferma che basterebbe un po' di solidarietà da parte del resto del mondo per arrivare a sconfiggere definitivamente gli islamisti. La primavera araba, arrivata al suo terzo anno, a riprova di quanto strana e poco entusiasmante sia stata tutta la faccenda, sembra stia entrando anche nella sua terza fase, uno sviluppo degno di nota. I primi momenti di questa rivoluzione regionale, in Tunisia nel dicembre 2010, poi in Egitto e in altri paesi, avevano le sembianze di un festival dell'utopia, anche se morti ce ne furono già allora. Era il momento delle fantasticherie facebookiane, la fase 1 della primavera, non ancora politica, ma bellissima. La seconda fase arrivò quando la politica di fatto entrò nel vivo, sotto forma di elezioni, niente meno, che in Egitto e in Tunisia, e non solo lì, portarono al potere i fratelli musulmani e i loro affiliati e derivati. Più di un esperto ci disse che la fase 2, cioè il dominio degli islamisti, era il destino della regione, e non c'era niente da fare se non cercare di guardarne il lato positivo, sempre che ci fosse. E guarda un po' che meraviglia, il presidente Morsi accetta di parlare al telefono con il presidente Obama. Ma poi è successo qualcosa di nuovo. In Egitto, Morsi e i fratelli musulmani lo scorso dicembre hanno tentato di imporre una costituzione islamista a tutto il paese, scontrandosi con manifestazioni e disordini di piazza che ancora vanno avanti. A quanto sembra, l'Egitto non è così smanioso di sottomettersi in toto al potere islamista. Qualcosa di simile è successo in Tunisia, dove governano gli islamisti di Ennahda, meravigliosamente moderati, secondo qualcuno. Eppure, sotto il governo di questi meravigliosi moderati, abbiamo assistito a mesi e mesi di violenze contro il resto della società, perpetrate dagli islamisti più radicali, tacitamente alleati dei moderati. A febbraio è stato assassinato un oppositore di troppo del regime islamista, esponente della sinistra e paladino dei diritti umani, e le strade si sono riempite di manifestanti. Anche in Mali le cose non vanno molto diversamente. Gli islamisti radicali avevano preso il controllo del nord del paese finché i francesi a gennaio non hanno lanciato il loro intervento militare e la popolazione è scesa in piazza per acclamare i francesi, che pure un tempo da quelle parti erano i padroni coloniali. Paese dopo paese, masse di persone insorgono contro gli islamisti in tutte le salse, da quella convenzionale, i fratelli musulmani egiziani, a quella presunta moderata, i tunisini di Ennahda, e a quella ultraradicale, i mozzatori di mani salafiti del Mali. Ed ecco quindi la fase 3, l'era delle proteste di massa contro gli islamisti. Significa che finalmente l'islamismo verrà sconfitto nella regione? È bello immaginarlo. Quantomeno c'è ragione di credere che l'islamismo non rappresenti l'intera area e per pensare che se solo il resto del mondo offrisse un po' di solidarietà, ci sarebbe speranza di arrivare un giorno a sconfiggere gli islamisti. Ed ecco i francesi, che in Mali stanno già facendo il loro dovere. Ma ecco anche il resto del mondo, che quasi non muove un dito per aiutare i francesi. Un brutto segnale. E proprio nel momento in cui, da Alessandria a Tunisi e a Timbuktu, tantissime persone, i nemici del movimento islamista, cominciano a mobilitarsi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paul Berman, Nuova Primavera, dal numero di marzo del mensile Il.